Ok. Lo so che vuoi essere trattata da principessa. Ma perché vai in giro con quell'aria da puttana? Postumi di una stronza mixtape. Sogni primogeniti. Boom, box. Una nottata con due ragazze dalla traccia. Stasera ho perso pezzi di un puzzle che non combacia. La mia ex mi bacia e lascia merda sulla faccia. Si cerca sulla mia traccia, ultima goccia, uomo a caccia. Sono un pesce nell'acqua quando si parla di flow. In questo club sto dentro come Truman nel suo show. Tipo stop, guardo te che muovi il culo sui miei versi. Bevi un po' con me, non ho dubbi su cosa penso. Faresti bene a lasciare queste vesti, è meglio se ti svesti. Non basta questa notte qui preliminari annessi. Non torni a casa Alessi, il nome forse è Jessica. Adesso sto un po' confuso, mamma mi resti qua. Farai la mia domestica fino a domenica e festa. Mi hai provato un rapper con l'atteggiamento gangsta. Questo è il mio programma, l'ho stilato nel privé. Lady, sai che c'è, voglio te, ma non dirla a mamma. Tipo se ti evito, tu non fai per me. Io non ti merito, ma che ne sai di me? Se io ti evito, tu non fai per me. Io non mi merito una troia come te. Tipo se ti evito, tu non fai per me. Io non ti merito, ma che ne sai di me? Se io ti evito, tu non fai per me. Io non mi merito una troia come te. Non dico sogni, pensa alle cazzate che fai. Chiama prima la dottoressa, Laura testa di Love Line. Bella vai, mezzanotte e mezza, tacchi al parabrezza. Giù con mezza salvezza, ancora troppe rime in testa. Al divanetto tengo stretto il bere, bene sul colletto. Vengo schietto e aspetto fuori il tuo amichetto. Sono diretto come un treno, diretto. Ho il diritto sulla notte se il giorno lo passa all'espresso. Nella mischia, la ragazza in pista, sguardo sensuale. Rischia il suo ragazzo in fila dal barista. Guarda male, che ci posso fare compare così che deve andare, stai qui, devo pisciare. Entro nel bagno un fratello che vomita nel cesso. E quindi messo male, pisce nel rubinetto. Fa lo stesso, stanoce tutto concesso. Permesso. Aspetta, non vedi come sta messo. Tipo se ti evito, tu non fai per me. Io non ti merito, ma che ne sai di me? Se io ti evito, tu non fai per me. Io non mi merito una troia come te. Tipo se ti evito, tu non fai per me. Io non ti merito, ma che ne sai di me? Se io ti evito, tu non fai per me. Io non mi merito una troia come te. Ok, sì, tu non fai per me. Buon Marco, chiudi tutto.